Il ritorno di un appuntamento della città ormai sta in rete con altri 24 Pride in tutta Italia e con altri 4 Pride in contemporanea quel giorno. Ha degli elementi di novità forti, come un percorso che si allunga tantissimo per mettere in relazione due punti storici della città e del movimento in questa città. Si parte dal Cavaticcio, la sede della Salaria, si arriva attraversando il centro storico fino a Porta Saragozza, cioè la prima sede della comunità LGBT. E i discorsi saranno nel parco di Villa Cassarini, cioè dove c'è il movimento che ricorda le vittime del nazifascismo. Un Pride collettivo, 20 associazioni sottoscrivono la piattaforma, 20 associazioni hanno fatto un percorso politico e un Pride si chiama Spazio all'Orgoglio, cioè che mette l'accento sulla parola orgoglio, ma anche sulla parola spazio come dimensione esplorativa dei movimenti, ma anche come tema caldo di questa città che deve uscire da una logica emergenziale ed episodica. Ecco, si legge spazio alle differenze, all'inclusione, alla salute, alle relazioni di genere, agli spazi. Dovesse descrivermi meglio la piattaforma politica per l'appunto come lo farebbe? Beh, innanzitutto con una parola chiave, intersezionalità, essere in grado di cogliere come le identità e le differenze si sovrappongono e creano tensioni diverse e sovrapposte rispetto alle persone. Questa ottica intersezionale, cioè che fa vedere se un cittadino o una cittadina è nel frattempo ricco, povera, giovane o vecchia, gay o lesbica o eterosessuale, cisgender o transgender, questa è una chiave di lettura che ci permette di comporre i bisogni e trovare delle risposte. In questo senso il nostro documento, nel suo definire questi assi, questi spazi, è una sorta di bussola, ci fa vedere, esplorare il mondo dei bisogni della nostra comunità e ci fa immaginare delle strategie per risolverli. Tante realtà hanno collaborato, quali? Ah, tantissime, quali sono, un elenco molto lungo. Ci sono le più storiche come Arci Gay, Arci Lesbica, Famiglia Arcobaleno, ma ce ne sono anche di molto nuove. Mi piace sottolineare BiProud. BiProud è un'associazione di bisessuali, un gruppo informale. La bisessualità non è mai, viene sempre nascosta, viene vissuta come un orientamento di passaggio, uno è bisessuale ma poi diventa gay. E invece no, esiste un orientamento conclamato, identitario, ed è la prima volta che la bisessualità occupa un posto così di rilievo all'interno di una piattaforma politica del movimento. È una pecca anche del movimento che cresce. Proviamo a spiegare a una persona che non è mai stata al Pride che cosa vuol dire, non teoricamente, concretamente Pride. Cosa vuol dire? Cos'è? Il Pride è l'orgoglio, il punto di partenza è quella notte tra il 27 e il 28 giugno in cui la popolazione LGBT reagì a una retata di repressione allo Stonewall Inn. Orgoglio vuol dire però, attenzione, allo Stonewall Inn era un locale in cui la comunità stava chiusa. Quel 27 e 28 giugno si reagisce a una repressione ma si esce nello spazio pubblico, l'orgoglio esce nello spazio e lo invade. Il Pride è la festa delle prime volte, io dico sempre, è il momento in cui una persona gay, lesbica o trans trova una comunità in cui si riconosce e intorno alla quale si sente forte. Io ho avuto il mio primo Pride, le persone che attraversano i nostri spazi hanno avuto il loro primo Pride. La nostra responsabilità è dare queste prime volte a tutte le generazioni di qualsiasi tipo si incontrino in questo spazio e trovino in questo spazio forza. Alle istituzioni chiedete entro l'anno l'approvazione di una legge alla regione, ad esempio, una legge contro l'omofobia. Sì, è una legge che esiste in alcuni casi addirittura da un decennio in altre regioni italiane. Non è una legge penale, quella la fa solo lo Stato, ma è una legge regionale che riuscirebbe a dare sistematicità e forza azioni di prevenzione, di monitoraggio e di contrasto dell'omotransfobia. Ne abbiamo un grande bisogno perché i report che parlano di queste cose presentano dati sempre crescenti e abbiamo bisogno soprattutto perché esiste una resistenza ideologica rispetto a queste politiche che va superata con un intervento politico istituzionale. Un commento sulla non presenza del movimento identità transessuale. Le vostre strade si stanno dividendo? No, no, assolutamente no. Il MIT ha fatto innanzitutto un documento in cui spiega il suo punto di vista su una serie di tematiche. È un punto di vista autodeterminato, è il punto di vista del MIT. Io credo che il MIT abbia fatto anche una scelta di come sottolineare una priorità, cioè quella delle tematiche trans, rispetto alle altre, ed era forse anche il caso di mettere una sottolineatura rossa sotto alcuni temi, che forse dentro a una compagine più ampia non avrebbero avuto lo stesso rilievo. Io trovo che lo spazio politico del Comitato Pride, che il MIT ha percorso fino a una settimana prima, sia uno spazio aperto e sia lo spazio anche del MIT. Oggi abbiamo una scelta politica da rispettare, domani abbiamo tutto un percorso da fare ancora assieme.